perfetto giorno di Simone Spezia. Amministrative, corre il Movimento 5 Stelle a Roma e Torino, primo partito in entrambe le città, PD in affanno, non arriva nemmeno al ballottaggio a Napoli e testa a testa a Milano tra Sala e Parisi. Le altre città, i candidati del PD vincono al primo turno a Salerno e Cagliari, a Benevento va al ballottaggio Clemente Mastella, secondo turno anche per il PD Merola contro la leghista Borgonzoni a Bologna. Renzi dice non è una debacle, ma vogliamo di più, il partito sarà commissariato a Napoli. Salvini dice il premier esce straindebolito dal voto, il nostro dato è incredibile, sono felice. E c'è anche la gioia dei grillini, Di Maio dice ha vinto la rivoluzione gentile, la candidata torinese Appendino aggiunge il divario nella roccaforte del PD è colmabile. Continua per le altre notizie l'assedio di Fallujah in Iraq, 50.000 persone sono intrappolate in città e secondo le ONG l'ISIS sta sparando ai civili che tentano la fuga. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Oggi ci concentreremo molto evidentemente sulle elezioni amministrative, sarà tra l'altro una puntata di lunedì particolare perché come sapete di solito dura un po' di meno perché alle 13.38, 13.40 circa abbiamo l'appuntamento con Mario Platero e poi la nostra rubrica sugli autotrasporti. Ebbene, oggi non ci sarà nessuna delle due, andremo in onda fino alle 14 proprio per fare il punto sulle amministrative. Non faremo mancare nemmeno il nostro consueto giro per l'Italia perché si è votato in tante grandi città e tra poco ci arriveremo, ma si è votato anche in città più piccole e vogliamo raccontare anche quelle. Iniziamo però dal quadro nazionale, dalle reazioni che stanno arrivando, ancora in corso, è finita da pochi minuti la conferenza stampa del segretario del Partito Democratico e Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, la sta seguendo Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno, non sono soddisfatto, il PD ha problemi, il Premier Matteo Renzi fa autocritica all'indomani della prima tornata delle amministrative al Largo del Nazareno, questo ci porterà a fare un ballottaggio più forte possibile, dice Renzi, occhio però ai numeri perché nella stragrande maggioranza delle città i nostri candidati sono sopra il 40%, ma sentiamo cosa ha detto Renzi. Quando leggo Salvini che è contento del risultato gli dico auguri, hai preso il 2,7% a Roma, se sei contento col 2,7% va bene. Il PD noi non siamo contenti, non siamo fatti come gli altri che mettono, che indossano il sorriso d'ordinanza dopo le elezioni e dicono beh però abbiamo vinto, questo lo fanno quelli vecchia maniera, quelli del teatrino della Prima Repubblica. Sono affamato di vittoria, penso che il PD è la più grande comunità politica europea, dice poi Renzi che non retrocede dall'Italicum e dal premio di lista e non vede correlazione tra il voto per le amministrative e quello per il referendum costituzionale. Esulta invece il Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo dedica il risultato che definisce storico a Gian Roberto Casaleggio, Luigi Di Maio pensa che con queste elezioni amministrative gli italiani abbiano riconosciuto al Movimento la capacità di governare, la fiducia che ci stanno dando, dice il vicepresidente della Camera, non la dobbiamo tradire mai e ne dobbiamo essere onorati. Nel centrodestra invece Simone si prepara alla resa dei conti con Forza Italia, dopo il risultato di Giorgia Meloni arrivata terza a Roma, anche per la divisione con il partito di Berlusconi che ha appoggiato Alfio Marchini arrivato quarto, dopo il voto ci sarà una nuova coalizione, dice il leader della Lega Matteo Salvini che appunto appoggiava la Meloni, mentre la Meloni dice che niente sarà più come prima. Stare insieme per forza non ci interessa, per il momento qui da Roma è tutto, a te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per averci dato innanzitutto il quadro delle reazioni nazionali a queste elezioni amministrative. Però adesso bisogna andare a fare il punto in ogni singola città o almeno in quelle principali e in alcune di quelle minori. Dunque iniziamo da Roma. Le urne confermano quanto previsto da alcuni sondaggi. A Roma il Movimento 5 Stelle diventa il partito più votato. Nella capitale i grillini superano il 35% dei consensi, triplicando il risultato delle comunali 2013 e doppiando quello ottenuto dal PD. È un momento storico, commenta Virginia Raggi. I romani sono pronti a voltare pagina e noi siamo pronti a governare. Io sono pronta a governare questa città. a restituire lo splendore e la bellezza che merita. Ancora nessun commento da Roberto Giachetti, che va comunque al ballottaggio sfiorando il 25% delle preferenze, meglio del suo partito, il PD, che dopo Mafia Capitale crolla invece al 17%, 9 punti in meno rispetto alle precedenti comunali. Abbiamo lisciato il miracolo, spiega invece delusa Giorgia Meloni, che le prime proiezioni davano appaiata a Giachetti. A Roma la leader di Fratelli d'Italia vede comunque raddoppiare i voti del suo partito, che arriva al 12%. Gli elettori non hanno compreso a fondo l'alleanza con i partiti, commenta infine Alfio Marchini, che si ferma al 10% nonostante il sostegno di Forza Italia, che nella capitale sprofonda al 4%. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Rimaniamo nel Lazio, come si diceva, non andiamo solo nelle grandi città, e andiamo a Latina, dove sono riprese da poco le operazioni di scrutinio, perché ci sono i seggi del centro che sono rimasti bloccati. Al momento ci sono 3 candidati sostanzialmente allineati. Si tratta di Nicola Calandrini, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, e Damiano Coletta della lista Latina Bene Comune. Sembra fuori dai giochi al momento il candidato del PD forte, che però è al 21%, gli altri due sono rispettivamente al 22,5% e al 22,4%. Risalendo verso nord, sarà ballottaggio a Bologna tra l'uscente Virginio Merola e la candidata leghista Lucia Borgonzoni. Il primo ha raccolto il 40% delle preferenze contro il 22% della seconda, e questo comunque un risultato storico per la Lega. E più avanti ne andremo a parlare col direttore del Resto del Carlino. Non abbiamo ancora stiamo attendendo il collegamento con Torino, l'altro luogo nel quale il Movimento 5 Stelle ha ottenuto un ottimo risultato, come si diceva, diventando primo partito e portando al ballottaggio Piero Fassino, con una distanza di una decina di punti tra il candidato del PD e il candidato del Movimento 5 Stelle. Invece sarà battaglia veramente all'ultimo voto, a quanto pare, tra Beppe Sala e Stefano Parisi a Milano. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Nelle amministrative più disertate di sempre a Milano, la lunga notte elettorale finisce col ballottaggio tra Beppe Sala e Stefano Parisi, come previsto, ma con davvero una manciata di voti a segnare l'ordine di arrivo, che alla fine vede il candidato di centrosinistra, l'ex Mister Expo, fortemente voluto da Matteo Renzi, avanti col 41,7% rispetto allo sfidante di centrodestra, ex city manager di Albertini, che qui ha ricompattato lo schieramento di centrodestra, che lo tallona alla 40,8%. Un risultato ribaltato a notte più che inoltrata, dopo che per ore i primi dati della Viminale con lo spoglio davano Mister Cili avanti a Sala, ribaltando le stime degli exit poll, salutate a caldo con soddisfazione invece dal PD e facendo calare il gelo all'Energolab, il quartier generale di Sala, che alla fine rimanda solo ad oggi alle 15 la sua conferenza stampa. Un silenzio opposto alle dichiarazioni invece sempre più cariche di Parisi, che saluta il risultato straordinario, dice: è stata la notte in cui tutto poteva succedere, così sarà ancora in queste 2 settimane fino al 15 giugno, quando a proclamare il successore di Giuliano Pisapia saranno soprattutto il voto degli indecisi e degli astenuti, quei 120.000 che non sono andati a votare, facendo crollare di 13 punti l'affluenza, e saranno i voti delle altre liste, dai grillini che ottengono il 10% alla sinistra di Basilio Rizzo. Subito è cominciato il corteggiamento, ma sarà, come dicevi, la caccia all'ultimo voto a stabilire se Milano proseguirà col centro-sinistra o riprenderà la serie di amministrazioni di centrodestra. Simone. E grazie anche alla nostra Raffaella Calandra, con la quale torneremo a collegarci più avanti nel corso della trasmissione. Per rimanere in Lombardia e per rimanere sui capoluoghi di provincia, sarà ballottaggio anche a Varese tra Paolo Origoni della Lega e Davide Galimberti del Partito Democratico. Altra grande città al voto, Napoli, la nostra inviata Annarita D'Ambrosio. Annarita, buongiorno. Buongiorno a voi, anche qui si gioca ovviamente tutto sulle alleanze, con una novità in più: le parole di Matteo Renzi, quelle che ha pronunciato poco fa sul commissariamento di Napoli. Qui il risultato del PD è un risultato che deve far riflettere più che in altre città, perché non dobbiamo mai dimenticarlo: questa è la città di Antonio Bassolino, della rinascita di Napoli del 1994, Antonio Bassolino grande escluso da queste elezioni dopo le primarie dei veleni, quelli che ricorderete ritraevano in un video all'esterno di alcuni seggi in alcuni quartieri cittadini dei consiglieri del PD che davano denaro per votare ad alcune persone in coda. Bassolino ha guardato la campagna elettorale da lontano, commentandola tutti i giorni. Oggi non vuole parlare, ne l'abbiamo cercato, non vuole parlare, ma quello che vince è lui, cioè le sue critiche a questa gestione che hanno poi portato la candidata Valente alla scelta della candidata Valente, sicuramente pesano tanto le parole che pronuncerà sicuramente Antonio Bassolino. La Valente sta per parlare qui a Napoli, io mi trovo al comitato della Valente dopo le parole appunto di Renzi su un commissariamento del Partito Democratico a Napoli. Pesa il risultato perché lo si guarda vicino a quello di Salerno, il risultato del post De Luca, oltre il 70% per l'uomo di De Luca, dunque la linea De Luca che vince, la linea Valente che evidentemente non sfonda, cioè due punti sotto Lettieri. C'è però da dire una cosa, noi ci troviamo in un palazzo di Piazza Bovio a Napoli, nel centro città, al primo piano c'è il comitato Lettieri, al secondo piano dove mi trovo c'è il comitato Valente. Lettieri per vincere deve puntare a quel 20% della Valente. È ovvio che lo sappiamo, la Valente si era apparentata con Verdini, ecco, un'ipotesi di accordo tra Forza Italia e Ala non è ipotizzabile al momento, ma è un tentativo che certamente si farà. Lettieri ha già incontrato i giornalisti in una conferenza stampa, ha detto che non si rivolge al PD ma a tutta la città, sentiamo le sue parole. Poche ore fa un grande fronte si è ribellato al malgoverno di questi 5 anni, un grande fronte ha detto no al malgoverno di questa città, infatti l'80% dei napoletani tra quelli che non sono andati a votare e quelli che hanno votato diversamente hanno detto no a questo governo, no a questa amministrazione. 4 su 5 sono stanchi delle cose che non funzionano in questa città. 4 su 5 sono stanchi delle promesse non mantenute. Queste dunque le parole di Lettieri. Lettieri ferma al 24%, De Magistris, il sindaco uscente, sostenuto da nessun partito ma da 14 liste civiche, al 42%. Dunque Lettieri che ha bisogno dei voti del Partito Democratico. Staremo a sentire, siamo molto curiosi di ascoltare le parole della candidata renziana del PD Valeria Valente che sta per pronunciare. Alle 15 parlerà invece De Magistris che aspirava ad una vittoria al primo turno che evidentemente non è riuscito ad ottenere. Per il momento da Napoli è tutto. Ti ringrazio, grazie alla nostra Anna Rita D'Ambrosio. Gli altri risultati campani, uno ve lo citava la stessa Anna Rita D'Ambrosio: Salerno stravince l'erede di Vincenzo De Luca, Vincenzo Napoli con il 70% delle preferenze. A Caserta, ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Carlo Marino che tocca il 44% e quello del centro-destra Riccardo Ventre che arriva al 19%. A Benevento si presentava Clemente Mastella che andrà al ballottaggio con il candidato del centro-sinistra Raffaele Del Vecchio, e due chiacchiere con Mastella più avanti ce le faremo. C'è anche Cagliari. Con una manciata di seggi ancora da scrutinare, ormai è certo, con quasi il 51% sarà ancora Massimo Zedda, il sindaco uscente, a governare Cagliari per i prossimi 5 anni. Zedda vince supportato da una coalizione che vede 11 sigle politiche, tra cui la sua SEL e il PD, staccando quello che fin dalla vigilia era il concorrente più accreditato, e cioè l'ex senatore azzurro Pier Giorgio Massidda, alla guida di un folto raggruppamento di centrodestra che si è fermato a poco più del 32%. Staccati gli altri candidati alla carica di primo cittadino, tra cui Maria Antonietta Martinez, alla guida dei 5 Stelle, fermi al 9,24%. Su 134.408 aventi diritto in città hanno votato 80.963, pari al 60,24%. Una vittoria al primo turno che forse lo stesso Zedda non pensava di guadagnare e che prospetta ora una maggioranza in consiglio comunale meno blindata di quella con cui ha governato in questi 5 anni appena trascorsi. Giuseppe Muru, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Cagliari. E infine a Torino con Paolo Piacenza, infine almeno per il momento, poi torneremo sulle amministrative nel corso di Effetto Giorno con Paolo Piacenza. Paolo, eccoci, come si diceva, un altro luogo dopo Roma nel quale il Movimento 5 Stelle è il primo partito, no? Sì, e infatti qui al cortile del Maglio Chiara Appendino, la candidata del Movimento 5 Stelle, ha concluso circa tre quarti d'ora la sua conferenza stampa, forte di un risultato che la vede andare al ballottaggio per sfidare Pier Fassino con i dati. Vediamo innanzitutto i dati: Fassino al 41,84%, Appendino al 30,92%, una distanza che non è poca, ma intanto, ed è appunto la notizia a cui accennavi, il Movimento 5 Stelle per la prima volta diventa a Torino il primo partito, superando il PD anche se di poco, 862 voti, 30% contro 29,7%. E possiamo sentire come proprio Chiara Appendino ha commentato questo successo al nostro microfono. Io credo che appunto dopo anni si raggiunga un risultato storico, straordinario, e mi sento ovviamente la responsabilità e l'onore di portare avanti tutta una serie di voci che evidentemente sono rimaste inascoltate in questi anni, e quindi i prossimi 15 giorni saranno intensi e continueremo a raccontare il programma per la nostra città. Ecco, siete abbastanza presenti su tutto il territorio, questo è un altro aspetto interessante. Sì, deriva dalla forza che sono le nostre persone, gli attivisti, i simpatizzanti, un lavoro fatto in modo capillare sul territorio, non negli ultimi mesi ma in 5 anni di attività. Noi nasciamo dai meetup, nasciamo proprio dal collegamento appunto col territorio, questo credo sia la nostra forza e oggi lo vediamo anche nei risultati. Per il secondo turno Appendino esclude apparentamenti, parla invece di confronto sui temi, in particolare ha ribadito i 4 punti della sua campagna elettorale: povertà, disoccupazione, periferie e sicurezza. Quanto a Piero Fassino, ieri alle 3 di notte era apparso certo non soddisfatto ma anche abbastanza sicuro di potercela fare. Il primo cittadino uscente ha sottolineato che la partita torinese sul futuro della città non deve essere letta in chiave nazionale, ha annunciato oggi invece che chiederà un voto a tutti, anche agli elettori del Movimento 5 Stelle, convinto che qualcuno al secondo turno possa cambiare idea e puntare sull'esperienza. E per ora da Torino è tutto. E ti ringrazio, grazie anche a Paolo Piacenza. Per rimanere in Piemonte, si andrà al ballottaggio a Novara tra il candidato della Lega Alessandro Canelli con il 32% e quello del centrosinistra Andrea Ballarè. E per spostarci più o meno in zona, in Liguria, Savona avrà certamente un sindaco donna, perché vanno al ballottaggio Cristina Battaglia del centrosinistra e Ilaria Caprioglio del centrodestra. Veniamo anche alle altre notizie, perché nonostante le amministrative ce ne sono e sono anche in importanti, a partire dall'assedio di Fallujah in Iraq che prosegue e secondo le testimonianze delle organizzazioni non governative l'ISIS sta sparando ai civili che cercano di fuggire. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Allora, alla fine appunto il governo iracheno ha deciso di proseguire con l'offensiva dopo che nei giorni scorsi aveva varato una sorta di stop, no? Proprio per consentire un po' di respiro ai civili. Sì, aveva cercato di rallentare le operazioni per dare modo ai cittadini di Fallujah di uscire dalla città, ma in realtà non è stato creato un vero e proprio corridoio umanitario che consentisse agli abitanti di Fallujah di uscire dall'assedio, di rompere l'assedio, e adesso sono dentro questa città trattenuti come scudi umani e ora anche come bersagli. Ma questa non è l'unica notizia del fronte della guerra all'ISIS, perché come sapete si sta stringendo la tenaglia anche intorno a Raqqa, la capitale del califfato in Siria. Ecco, quello è l'altro punto interessante, Alberto. Mi sembra che le operazioni militari nei confronti dell'ISIS si stiano facendo sempre più intense. Non c'è dubbio, e soprattutto Raqqa sta diventando una vicenda molto interessante, perché ci sono le colonne dei curdi che sono arrivati a Manjib, è una città non distante da Raqqa. Queste colonne dei curdi sono sostenute dall'aviazione americana e della coalizione internazionale, mentre dall'altra parte sta arrivando l'esercito siriano appoggiato dai russi. Sembra quasi che ci sia, come dire, in corso una sorta di gran premio del califfato, cioè chi arriverà per primo a occupare la capitale dell'ISIS. Ti ringrazio, grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per la sua analisi sempre puntuale. Adesso con un po' di ritardo andiamo sul traffico, dopodiché abbiamo già in studio il nostro Carlo Genta per farci due chiacchiere, visto che insomma il mondo non si ferma con le amministrative, ci sono anche le vicende sportive, il fine settimana sportivo che è stato importante e interessante soprattutto dal lato del moto mondiale, ma non solamente quello, tra l'altro manca qualche giorno, pochi giorni all'inizio degli europei. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione, oltre che di Iraq, come avete sentito prima subito del traffico, abbiamo parlato ampiamente di amministrative e tra poco ci torneremo. Abbiamo già in linea tra l'altro Enzo Derrico, direttore del Corriere del Mezzogiorno, perché con lui vogliamo fare un punto proprio su Napoli e non solo su Napoli, anche le altre province che sono andate al voto. Ma prima ci va di staccare un attimo, un paio di minuti, col nostro Carlo Genta per fare due chiacchiere su questo fine settimana sportivo, direi, Carlo, a partire dal motomondiale, no? Sì, motomondiale è la vera notizia che abbiamo raccolto, meravigliosa peraltro, che abbiamo raccolto in questo fine settimana con Valentino Rossi che torna a vincere, lo fa a Barcellona, riapre in qualche modo il mondiale, poi è stata fatta un sacco di filosofia su quella stretta di mano sul podio con Marquez. Secondo me semplicemente si è trattato di un gesto di cortesia nei confronti dello sconfitto, che però nulla cambia nella rivalità tra i due. C'è poi Pedrosa sulla Honda, c'è un altro tema con Iannone che gioca praticamente ai birilli con un sacco di piloti. Più tardi sentiremo anche Carlo Pernat, che è il suo manager. In questo momento Iannone, sappiamo, corre per la Ducati, non è stato confermato per l'anno prossimo, è un pilota molto aggressivo, molto creativo se vogliamo, e sta diventando anche piuttosto pericoloso, Simone. Rivalità che comunque, insomma, alla fine fa bene allo stesso motomondiale, presumibilmente. Ma assolutamente, no? Assolutamente. Senti Carlo, sul fronte calcistico, abbiamo l'Inter oggi, l'ufficialità dell'acquisto a parte del Suning con il 68,5% delle azioni dell'Inter, e poi appunto siamo più o meno una settimana dagli europei, no? Sì, siamo una settimana dagli europei, per quello secondo me c'è tempo, questa è la notizia del giorno, peraltro attesa, ora ufficiale. Chi sognava un ritorno di Moratti sul cavallo bianco all'Inter adesso dovrà fare i conti invece con un altro scenario, che però fossi un interista non sarebbe poi male, perché Suning è lo sai meglio di me, un grande colosso mondiale, ha intascato il 68,55% delle quote del club, comprese quelle di Moratti, che dunque esce definitivamente di scena prima della deadline di novembre che era stata da molti fissata. Toier si tiene un 31%, ma soltanto, e la carica di presidente, ma soltanto per il momento, perché si tratta di passare ad una transizione all'intera proprietà del club a Suning. Quindi stiamo già tutti studiando il cinese, l'Inter finisce in mani comunque capaci. È chiaro che l'esperienza Toier avrà ascoltato qualche nerazzurro, però in questo caso si tratta di un grande colosso che entra nel calcio italiano con un grande club. Allora grazie al nostro Carlo Genta, che ritroviamo alle 14 in tutti i convocati. Dunque con Enzo Derrico, direttore del Corriere del Mezzogiorno. Ciao direttore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, il problema è strettamente Napoli, come dice il segretario del Partito Democratico e Presidente del Consiglio Renzi, lui dice insomma qua nei comuni intorno abbiamo vinto dappertutto, Napoli no, c'è un problema là per il nostro partito. Questo è indubbio, forse Renzi avrebbe fatto bene ad accorgersene anche prima, diciamo, perché questo voto, che rappresenta un vero disastro per il PD, che scende all'11%, quindi a percentuali appunto disastrose, e se addirittura perde il ruolo di primo partito a vantaggio della lista civica di De Magistris, quindi insomma è un bilancio che però era atteso, forse non in queste dimensioni, perché arriva dopo 5 anni di totale assenza del PD sulla scena politica cittadina, un'assenza di opposizione, di strategie, e quindi poi gli elettori sono sempre più avvertiti di quanto immaginino i politici. Insomma, in sostanza ci ha pensato un po' tardi, per così dire. Senti una cosa, c'è poi il resto del territorio, no? A Salerno il De Luchiano Vincenzo Napoli prende il 70%, percentuali, come si diceva una volta, bulgare. Caserta il candidato del centro-sinistra è comunque va al ballottaggio ma con un buon vantaggio, un 44%, e quello del centro-destra al 19%. E poi c'è questa vicenda di Benevento, no? Con il ritorno di Clemente Mastella. Sì, è un testa a testa a Benevento. Mastella frutta, diciamo, il suo radicamento sul territorio. Ora bisognerà vedere gli esiti di un ballottaggio che è molto incerto, anche perché i 5 Stelle lì, insomma, non hanno un grande seguito. Insomma, bisognerà vedere un attimo, quello è sicuramente la competizione più aperta. Per il resto, Salerno è un caso a parte ormai, sì, da anni, da De Luca e ai candidati di De Luca, percentuali bulgare, come dicevi tu prima. Però questo dà anche il senso del discorso che facevamo poc'anzi, ossia che in elezioni amministrative è importante anche la candidatura, la caratura del candidato. Qui a Napoli anche questo probabilmente è stato sbagliato, perché è il frutto di accordi nazionali. Ma quello che, diciamo, inquieta ancora di più di questa vicenda del PD napoletano è che su queste elezioni si è giocata la faccia la nuova generazione, cioè i quarantenni del PD napoletano. Penso a cominciare ovviamente dalla Valente, ma penso ad Andrea Cozzolino, penso a Gennaro Migliore e a tanti altri. E adesso, persa in malo modo questa scommessa, francamente non so a chi possa rivolgersi oggi il PD. Renzi parla di commissariamento, già c'è stato 5 anni fa, dopo la sconfitta subita dal candidato, dal prefetto Morcone, che anche lui non arrivò al ballottaggio. C'è stato un commissariamento, ma formale, nel senso che non può far rinascere un partito un esponente che viene da Roma e sta a Napoli uno o due giorni alla settimana. Certo, bisogno di una figura forte che riprenda in mano questo, che ormai è a Napoli più un comitato di interessi elettorali che si coagula ogni 5 anni, ma per il resto tutto è fuorché un partito. Ti ringrazio, grazie a Enzo D'Enrico, direttore del Corriere del Mezzogiorno, per questa analisi. Abbiamo in linea proprio Clemente Mastella. Buongiorno Mastella, benvenuto. Ciao, buongiorno a lei. Buongiorno. Ma se l'aspettava. Ma guarda, io sentendo ora la discussione, quelli tenevano il candidato, e in questo faccio il peana all'anti-rottamazione. Tenevano Bassolino e invece l'hanno ammazzato loro politicamente. Quindi lei dice che con Bassolino avrebbero vinto, secondo lei? Ma secondo me andavano certamente al ballottaggio, guardi, su questo non c'è il minimo dubbio, perché teneva un carisma che la Valente non aveva. Lenta, non lenta nei riflessi, lenta in un'azione politica. Guardi, questa storia di vecchi, nuovi, cioè è una storia di un'imbecillità politica e anche umana incredibile. La vita è fatta di giovani, anziani, rottamatori, antirottamatori. Cioè, prenderla come canone, diciamo, sul piano politico può valere una stagione, ma dura poco. E poi alla fine, Mastella, il punto è che tocca vincere, quindi tocca mettere i candidati che vincono. Non, Esattamente. Sapete una cosa, lei se l'aspettava di arrivare al ballottaggio? Perché, guardi, io ero dato a parte di tutti, ero dato al terzo posto a tutti i sondaggi, anche 2 giorni prima. È stata una sorpresa incredibile, per me entusiasmante. Tenga conto che anche qua io, come dire, ho preso a cazzotti una serie di sciocchezze e di imbecillità che mi hanno riguardato. Cioè, Mastella uguale al potere, cioè 10 anni non tocco palla di potere, quindi proprio la gente mi ha votato in maniera incredibile. Però lei per un pezzo d'Italia rappresenta sicuramente quella che potremmo definire, aperte virgolette, la vecchia politica, no? Ma diciamo la buona politica. Se lei dice la buona vecchia politica, io aggiungo, rispetto a lei, ci metto questo aggettivo. Non sta a me dare giudizi, come dire, sono un giornalista. La domanda a me, quindi ci aggiungo buona politica, vecchia buona politica, perché non mi pare che, insomma, sia questo modo sconvolgente di quella nuova, non mi pare. Poi quella nuova, guardi, insomma, dobbiamo pure intenderci, perché poi dovete essere anche commentatori che dovete un po' più mordere in realtà, insomma, fare un po' i cronisti americani, ma lo dico a lei parlando con gli altri. Qual è la buona politica di oggi? Quella per la quale, se per l'alleanza con Verdini va bene, se la facevano con me la sinistra si aveva pudore come faceva Veltroni, gli è rimasta un po' sul gozzo questa. Non è sul gozzo, io dico la verità, come le posso dire, se non cambiano l'Italia come ne fanno a turno unico, Renzi la piglia in saccoccia, guardi, perché ormai è diventata un tripolarismo e una vicenda politica e meccanica elettorale è come il Palio di Siena, dove uno fa vincere quello che è meno distante da te, quello che, ecco qua, non dichiaronisci giornalmente e quotidianamente. È così, è il senso del ballottaggio, del resto. Eh sì, esatto. Senta, esatto. La ringrazio, grazie Clemente Mastella, che lei, appunto candidato sindaco a Benevento, che andrà al secondo turno. E adesso ci prendiamo una pausa, andiamo a sentire cosa succede sui mercati come sempre, e poi nella seconda parte della trasmissione torneremo anche a parlare di nuovo di Milano. Stiamo cercando di rintracciare qualcuno che ci parli un po' della vicenda di Platì, perché finalmente ha un sindaco dopo tanti anni, e però è un sindaco sul quale la Commissione Antimafia ha sollevato più di un'obiezione. Una pausa tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli molto concentrati oggi sulle amministrative, dove corre il Movimento 5 Stelle a Roma e Torino ed è primo partito in entrambe le città. PD in affanno, non arriva nemmeno al ballottaggio a Napoli ed è testa a testa a Milano tra Sala e Parisi. Nelle altre città i candidati del PD vincono il primo turno a Salerno e a Cagliari. A Benevento va al ballottaggio Clemente Mastella, secondo turno anche per il PD Merola contro la leghista Borgo Gonzoni a Bologna, un risultato storico per la Lega questo. Le reazioni, Renzi dice non è una debacle ma vogliamo di più, il partito sarà commissariato a Napoli. Parla in questi minuti la candidata del PD che ha perso e non è arrivata al ballottaggio, Valente, e dice ringrazio Renzi, appunto la città serve un nuovo partito democratico. Salvini, il premier esce straindebolito dal voto, il nostro dato è incredibile, sono felice, la gioia dei grillini. Di Maio dice ha vinto la rivoluzione gentile. Per le altre notizie, continua l'assedio di Fallujah in Iraq, ci sono 50.000 persone intrappolate in città e secondo le ONG l'ISIS sta sparando ai civili che tentano la fuga. La borsa. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, puntata speciale oggi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Concluderemo la puntata intorno alle 14 in sostanza, a differenza del solito, abbiamo parlato tanto dei dati, che se volete vi riassumo brevemente di come sono andate le cose per quanto riguarda le amministrative. Come abbiamo visto, Torino e Roma vedranno il ballottaggio tra le candidate del Movimento 5 Stelle e i candidati del Partito Democratico, Chiara Appendino contro Piero Fassino a Torino e Roberto Giachetti contro Virginia Raggi a Roma. Torino e Roma, dove il Movimento 5 Stelle è primo partito, il PD non arriva nemmeno al ballottaggio a Napoli, che sarà tra Gianni Lettieri del centrodestra e Luigi De Magistris. A Milano è un testa a testa, e poi ancora tutte le altre città, tra cui Bologna, dove il PD Virginio Merola andrà al ballottaggio con la candidata leghista Lucia Borgonzoni, insomma molte altre città. Oggi però il Sole 24 Ore fa, devo dire, veramente delle belle pagine, nelle quali invece che scendere eccessivamente nel dettaglio della politica e della sfida che è in ballo, parla di quelli che sono i problemi di queste singole città che sono andate al voto. Antonello Cherchi del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. È un punto quello che avete cercato di fare proprio sui fatti, cioè sulle sfide che devono affrontare le prossime amministrazioni comunali, da Cagliari a Trieste, Bologna, Torino. Sì, sì, ci siamo concentrati in particolare sulle città capoluogo di regione e sulle 18 città capoluogo di provincia, e abbiamo un po' fatto abbiamo fissato la fotografia di quelli che sono i maggiori problemi che i neosindaci dovranno affrontare. Abbiamo un po' fatto quella che si dice il tagliando di queste città dopo il governo dei sindaci uscenti o dei sindaci che verranno riconfermati, questo in alcuni casi ancora no, in molti casi ancora non lo si sa, e abbiamo un po' prospettato quella che è l'agenda per il primo cittadino all'indomani della sua nomina. Ecco, i problemi sono insomma i problemi sì, abbastanza comuni. Vogliamo fare qualche esempio, Antonello? Sì. È abbastanza intuitivo, visto i problemi si conoscono, si inizia dal problema delle entrate, quindi dei soldi. Ovviamente lo si sa, per effetto della crisi e anche per effetto del giro di vite, che ci sono stati sui trasferimenti statali agli enti locali in questi ultimi anni, le risorse sono sempre meno, e poi c'è il problema che i sindaci quest'anno non potranno agire sulle aliquote delle tasse comunali, tasse che, visto che siamo in prossimità dell'acconto, per quanto riguarda l'IMU e la TASI sull'abitazione principale non si pagheranno, quindi non c'è una perdita di gettito perché questa parte delle tasse verrà trasferita, quella che sulle prime case, sulle abitazioni principali non si pagherà, verrà trasferita allo Stato, però è anche vero che lo Stato ha un po' fermato la situazione, quindi chi aveva già aliquote basse riceverà ovviamente trasferimenti bassi e non potrà fare nulla. Questo è sicuramente uno dei problemi, ci sono poi problemi della mobilità, dei trasporti, sì, della gestione dei rifiuti, è il grosso problema, che è un problema ovviamente nazionale che poi viene declinato in modalità locali, è quello dell'occupazione, soprattutto giovanile, cioè il lavoro in particolare nel meridione, con i dati di Napoli che sono piuttosto sconfortanti, il lavoro manca e questo è uno dei grossi problemi che devono affrontare anche i sindaci. Allora, io ti ringrazio Antonello Cherchi, poi trovate sul Sole 24 Ore, in edicola oggi, anche le singole schede per ogni singola città su quali sono i problemi più urgenti, e può servire anche per votare al ballottaggio, come dire, in maniera un po' più informata eventualmente. Tra l'altro vi aggiorno un dato che non vi abbiamo fornito prima sul dato di Trieste, che ha iniziato più tardi lo scrutinio. Siamo a 220 sezioni rilevate su 238, in testa il candidato del centrodestra con il 40,6%, si tratta di Roberto Di Piazza, mentre Roberto Cosolini del centrosinistra è al 29,2%, quindi si prospetta il ballottaggio anche per Trieste, dove Paolo Menis del Movimento 5 Stelle è al 20%. Andrea Cangini, direttore del Resto del Carlino. Ciao direttore, buongiorno, benvenuto. Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori, eccoci. Eccoci qua. Allora, partiamo da Bologna, però facciamo una cosa, ti chiedo di aspettare ancora un minuto. Abbiamo il traffico, sentiamo che cosa succede sulle strade e poi parliamo di Bologna, dove la Lega raggiunge un risultato storico per certi aspetti, un 22%, e con un Merola, candidato del PD, che si ferma al 40%. Traffico. Effetto giorno. Ed eccoci dunque con Andrea Cangini, direttore del Resto del Carlino. È un risultato che ti aspettavi? Guarda, direi di sì, forse non così negativo, ma grosso modo sì. Il motivo è semplice: Virginio Merola, il sindaco uscente, non è un sindaco popolare, tant'è che a ridosso della scorsa estate si è levato un dibattito abbastanza serio, ma è durato poco, all'interno del Partito Democratico, sull'opportunità di ricandidarlo piuttosto che invece di scegliere un candidato più competitivo. Per evitare conflitti interni e forti anche del fatto che il centrodestra era diviso e non aveva con tutta evidenza candidati molto competitivi, lo hanno confermato. Il risultato è abbastanza sconfortante per il PD, e considerando che Bologna rappresenta emblematicamente un po' la roccaforte, Bologna e l'Emilia Romagna, del partito, dovrebbe far riflettere. Alle scorse regionali nel 2014 andò a votare il 37% degli aventi diritto, quindi pochissimi, un record negativo storico. A queste comunali ha votato meno della media nazionale, che pure era decisamente più bassa rispetto alle scorse amministrative. Merola, candidato del PD uscente, ha preso meno del 40% e soprattutto ha perso il voto in quartieri come San Donato, la Bolognina, insomma, quartieri tradizionalmente rossi e molto fedeli alla linea dell'ex PC. Ascolta Andrea, voi che avete un po' sotto mano il territorio, no? Che sensazione, che cosa arriva dal Resto dell'Emilia Romagna? Proprio lo dicevamo, perché è una regione strategica per il Partito Democratico, per la sua storia e per mille altri motivi. Perché ho visto, per esempio, c'è uno scollamento sempre più evidente tra il partito, che tradizionalmente in questa regione, come giustamente ricordavi, ha sempre avuto radici profonde, e il territorio. Il fatto che a Bologna si debba attendere il secondo turno per sapere chi vincerà già è di per sé emblematico, non ho dubbi sul fatto che vincerà Merola, ma vincerà male. E così anche a Ravenna, dove alle scorse amministrative, come quasi sempre è accaduto, il sindaco del PD è stato eletto al primo turno, anche a Ravenna si voterà e sarà necessario attendere il secondo turno. L'unico comune dove i giochi si sono fatti già al primo turno, cioè ieri, è Rimini, dove è candidato un renziano che si chiama Agnassi. Tieni presente che Merola non è un renziano e il partito bolognese di fatto è più bersaniano che renziano. Pochi giorni fa, prima del voto, Merola ci ha tenuto a far sapere che aveva firmato il referendum della CGIL contro il Jobs Act. Sì. Quindi si è decisamente coperto a sinistra, ciò nonostante ha avuto molti meno voti di quelli che lui stesso si aspettava, e una lista di sinistra che gli si è contrapposta ha preso il 7-8%, che non è pochissimo. Tra l'altro, ecco, a testimonianza di quello che raccontavi tu, ci sono altri esempi, tanto per fare un esempio, a Finale Emilia, altro comune, certo parliamo di un piccolo comune, relativamente piccolo, con 12.000 elettori, quindi 20.000 famiglie più o meno, 20.000 abitanti più o meno, in testa il candidato della Lega Nord con il 43,6% contro il candidato del PD al 30%, e si usciva da un'amministrazione del Partito Democratico. Andranno al ballottaggio, però insomma i segnali che tu ci sottolineavi ci sono anche da piccoli territori, no? Assolutamente, tieni presente che per colpa dei dirigenti nazionali, a mio avviso Forza Italia è quasi anche del tutto inconsistente, inesistente sul territorio. Davvero a Bologna, e forse non solo a Bologna, se si fossero posti il problema per tempo e avessero sondato come si deve la cosiddetta società civile, ci sarebbero state quest'anno le condizioni per ripetere l'exploit di Giorgio Guazzaloca nel 99, cioè fu il primo caso in cui Bologna la rossa vide un sindaco eletto con i voti del centrodestra. Per insipienza, per divisioni interne, per incapacità di coltivare il territorio, il centrodestra non ha approfittato di questa occasione e la Lega obiettivamente è stata l'unico partito che si è visto in scena. Salvini era in continuazione a Bologna, a Ravenna, piuttosto che a Rimini. Aiutato involontariamente dai centri sociali che ogni volta che lui si presentava lo contestavano, bruciavano i suoi libri, mettevano in scena manifestazioni di piazza spesso violente, creando quindi un'enorme grancassa a queste visite che se no sarebbero passate, non dico inosservate, ma insomma avrebbero avuto ben altro risalto, ben altra eco. Ti ringrazio, grazie Andrea Cangini, direttore del Resto del Carlino, e torniamo a Milano da Raffaella Calandra per fare un punto, perché poi ho visto che tra l'altro c'è qualche dichiarazione di Beppe Sala, anche se farà conferenza stampa alle 15, no Raffaella? Sì Simone, allora Sala per ora diciamo commenta soprattutto il dato sull'astensione, ma come abbiamo detto fin da stamattina i suoi commenti alla fine li rinvia alle 15 e quindi dopo questo testa a testa alla Cardiopalma con Stefano Parisi, e a quel punto in conferenza stampa ci daranno anche le prime necessarie richieste di collaborazione con i voti degli altri, diciamo i voti innanzitutto della sinistra di Basilio Rizzo, poi dei radicali di Cappato e anche soprattutto con la caccia agli indecisi. Di sicuro questo voto conferma, guardando le liste, però il PD sempre primo partito, ma l'esito di questo voto del ballottaggio peserà anche nei rapporti interni all'interno del centro-sinistra, visto che Renzi aveva puntato, ha voluto fortemente Mister Expo e rispetto ai suoi rapporti con la minoranza Dem. Dall'altra parte però quello che si può anche aggiungere è che questo voto con la rincorsa di Stefano Parisi, che oggi saluta il risultato della testa a testa come un risultato straordinario, ha detto in questi tre mesi nessuno fino ad ora mi conosceva, in qualche modo avrà un peso non da poco anche all'interno del centrodestra, che sotto al Duomo si è ricompattato e che vede, guardando le liste, Forza Italia praticamente doppiare la Lega di Matteo Salvini, che pur era stato capolista qui a Milano. Quindi come dire, un voto apertissimo rispetto al 19 giugno, ma il cui peso non soltanto stabilirà il successore di Giuliano Pisapia, ma in qualche modo influirà anche negli equilibri interni ai due schieramenti. Certo, ovviamente, e anche a livello nazionale. Ti ringrazio, grazie Raffaella Calandra, e torniamo a Napoli da Annalita D'Ambrosio, perché ha finalmente parlato la ex candidata sindaca del Partito Democratico, Valeria Valente. Annalita, cosa ha detto? Simone, sono state importanti le parole della Valente, che innanzitutto ha riconosciuto la sconfitta, ha detto: quando si vince insieme, quando si perde da soli, io ho perso, innanzitutto mi assumo la responsabilità. Le parole più importanti sono due, i concetti espressi sono due. Il primo: l'esperienza del PD finisce qui, cioè libertà di coscienza, non ci sarà alcun apparentamento. Lettieri ha detto: mi rivolgo agli elettori del Partito Democratico, a chi ha votato il Partito Democratico, non al partito stesso, ma lei ha detto: vedrà lui se riuscirà a convincerli. Quindi l'esperienza si conclude qui. Sono d'accordo, dice la Valente, con Renzi nella necessità di un rinnovamento del partito a Napoli, partito che non ha saputo esprimere quello che doveva in questa città, quindi sì al commissariamento. E poi c'è un altro elemento importante, perché lei ha riconosciuto che l'alleanza con Verdini non è stata ben spiegata e che quindi quell'1% che ha portato Verdini ha però pesato tanto sul suo risultato finale. E grazie, grazie anche ad Annalita D'Ambrosio. Andiamo a chiudere dunque questa puntata speciale di Effetto Giorno, poi domani torniamo regolari, ci sarà America 24, ci sarà anche Autotrasporti, che abbiamo rinviato appunto alla giornata di domani. I ringraziamenti vanno a Paolo Corleone in regia, Alessandro Longoni in assistenza e in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, e tutti voi per l'ascolto. Dunque ci risentiamo domani alle 13, ci risentiamo come sempre tra un attimo con GR24. Una buona giornata da Simone Spezia.